Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio dal Salone Internazionale del Libro di Torino, dove Radio 24, partner ufficiale del Salone stesso, trasmette in diretta da stamane sino a lunedì pomeriggio per tutta la durata, cioè della rassegna. Il padiglione è il numero 2, la postazione L161, Livorno 161, lo dico per chi si sta dirigendo al Salone o conta di farlo in questi 5 giorni, ed è ovviamente il benvenuto in questo spazio attrezzato tra l'altro quest'anno per un buon numero di persone. A darvi il benvenuto troverete la nostra squadra, capitanata personalmente da Roberta Lai, amministratore delegato di Radio 24, Il Sole 24 Ore, e poi vi darò la formazione completa prima della fine della puntata stessa. Puntata che è costruita oggi, credo logicamente, tra calcio ed editoria. Allora, grazie in particolare alla presenza di Massimo Turchetta, direttore generale della divisione libri Trade RCS, personaggio di spicco dell'editoria nazionale dunque, e grande appassionato di bel calcio con una discreta passione per l'Inter. Buongiorno Massimo. Dunque, Turchetta, per metterla in termini calcistici, così ci capiamo subito, è secondo me un po' il Trapattoni del mondo editoriale italiano. Perché? Perché ha allenato, se posso mettere in questi termini, ha allenato prima Mondadori, poi Feltrinelli, poi ha di nuovo allenato Mondadori e adesso allena RCS, che mi sembra un discreto percorso professionale. Beh, è un paragone che mi lusinga molto, anche se, ahimè, Trapattoni per noi è sempre milanista nel cuore, però sì, ti ringrazio, ho avuto la fortuna e il privilegio di poter passare da queste avventure e sì, insomma, sono direi insieme col gruppo James Longanesi le corazzate dell'editoria italiana. Allora, sia il pubblico presente in sala che il pubblico a casa e in auto, cioè il pubblico tradizionale di A Tempo di Sport, tra poco avrà modo di valutare la competenza specifica di Massimo Turchetta in materia di pallone. Accanto a questa, chiamiamola pure, grande editoria metropolitana, oggi c'è anche quella provinciale, poi io non so esattamente dove sia la sede di questa piccola casa editrice, ce lo dirà tra poco Manuela Paonessa, benvenuta. Grazie. Ed è secondo me rappresenta il Chievo, cioè se di qua ci sono gli squadroni metropolitani, alla mia sinistra, alla vostra destra c'è il Chievo, cioè c'è chi è più piccolo di dimensioni e si ingegna a ritagliarsi degli spazi. Il Chievo si è ritagliato uno spazio che sta durando in Serie A da 10 anni. Voi mi pare ci stiate arrivando, ci siete arrivati. Noi ce l'auguriamo. Intanto scusami, devi dirci come si chiama la tua casa editrice, perché per me questo nome è impronunciabile, è troppo difficile. Il nome della casa editrice è 66 and Second. 66 and Second, esatto. Ed è in realtà un indirizzo, è un indirizzo newyorkese, l'incrocio tra la 66esima strada e la Seconda Avenue di New York, ed è anche il luogo fisico in cui gli editori Tommaso Cianci e Isabella Ferretti hanno avuto per la prima volta l'idea di fondare una casa editrice, quindi è una ragione anche affettiva, ecco, quello il nome della casa editrice. Spiego il perché della presenza di questa casa editrice che continuo che pronuncerò magari più tardi quando mi sarò meglio acclimatato, per evitare slittare sui numeri. Manuela, che è questa? Lo scorso anno, riassumo in sintesi, poi mi correggi se sbaglio, avete pensato che sarebbe stato questo il 2011 l'anno del 150enario dell'Unità, vi sarebbe piaciuto raccontare delle storie di sport che avessero un riferimento, un contenuto storico di questo anniversario, e avete varato un concorso. Questo concorso nel frattempo c'è stato, avete ricevuto, ci dirai quante opere e cosa, una giuria presieduta da Gabriele Romagnoli, quindi insomma di un'autorevolezza rara, ha messo nel mirino questi lavori, ha selezionato un vincitore che voi proclamerete stasera alle 19 qua al Salone, ma che cortesemente ci avete anticipato e tra poco ci raggiungerà qui in cattedra. Certamente. Noi abbiamo deciso di promuovere questo concorso letterario che si chiama In attesa dell'Unità d'Italia, proprio per festeggiare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Già nel titolo si fa riferimento all'attesa, che è in realtà un rapido collegamento con la nostra collana di letteratura sportiva chiamata appunto Attese. La nostra intenzione era proprio quella, attraverso questo concorso, di poter pubblicare una nuova opera di un autore esordiente che avesse lo sport all'interno della trama del romanzo e che richiamasse anche l'Unità d'Italia. Quindi è stato interamente lasciato alla fantasia degli autori e delle autrici il riferimento legato all'Unità d'Italia, il riferimento storico, per cui anche lo sport che poteva essere scelto in realtà era completamente lasciato alla loro immaginazione. Il premio per questo, per il vincitore, che tra poco ci raggiungerà, ripeto, qui, e che tra l'altro vi dirò quale legame ha addirittura, questo ho scoperto stamane, con Radio 24, il premio consiste nella pubblicazione di questo libro. Pubblicazione dell'opera, che avverrà entro la fine dell'anno, quindi certo. Speriamo che l'opera sia pubblicata entro la fine dell'anno, sarà sicuramente in libreria. Manuela, grazie. Massimo Turchetta, partiamo dal calcio o dall'editoria? Scegli tu. Scelga lei, professore. Senti, partiamo dall'attualità stretta, anche perché questa è una puntata, ovvio, che si svolge secondo canoni leggermente diversi, ma che non tradisce lo spirito del programma, sicché abbiamo da ascoltare delle voci di campioni, per esempio di campioni del Barcellona, che proprio ieri sera si sono laureati tali per il terzo anno consecutivo. Ieri sera l'Inter ha raggiunto il Palermo in finale di Coppa Italia. Partiamo da lì e rivediamo in linea di massima questa stagione dell'Inter in rapporto alle attese che invece c'erano sulla stagione stessa. Un commento da amante del calcio più che da interista. Io credo che in qualche modo il calcio sia bello, in questo caso la vicenda dell'Inter è significativa perché esprime tutta la società da cui viene, quindi in qualche modo anche nella stagione dell'Inter si vedono alcuni pregi e difetti del momento contemporaneo della nostra società, senza fare discorsi troppo sociologici, però l'Inter ha raggiunto un obiettivo, ha creduto di avere in mano una posizione di privilegio che poteva permettersi di confermare senza ritoccare, senza forse guardare la realtà di una squadra abbastanza logorata e con un'età media alta, e quindi da lì in qualche modo le involuzioni, i tre allenatori cambiati in meno di 12 mesi, subito il meccanismo per cui si dà in mano la squadra un allenatore Benitez che ha un'idea di calcio ma un'idea invece più esitante sulla gestione dei campioni che erano in qualche modo consustanziali alla società. Per cui è arrivata la grande delusione, alcuni successi comunque come la Coppa Intercontinentale e questa finale di Coppa Italia, vedremo se sarà un successo, soprattutto però ha messo in evidenza che in qualche modo se lo spogliatoio è troppo forte anche quello non è un bene, perché probabilmente comanda più della società. Siamo al primo intervallo di oggi, è evidente che sia le persone in sala che sono qui ad ascoltare in diretta e di persona questo programma, sia come sempre gli ascoltatori da casa o dall'auto, sono anche oggi abilitati ad intervenire previo prenotazione al numero verde nel caso di chi ci segue di lontano, previo alzata di mano, facciamo così, invece per chi ci segue qua di persona. Sentiamo come va sulle strade. Torniamo in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, dando il benvenuto a Dario De Marco. Buongiorno Dario. Buongiorno a tutti. Allora, lui è il vincitore di quel concorso di cui si è parlato prima, che sarà proclamato stasera soltanto alle 19. È ovvio che ringraziamo la casa editrice per questa anteprima. La scoperta, spero piacevole per gli ascoltatori di Radio 24, ma anche per noi che ne facciamo parte da tanti anni, è questa. Ed è davvero una scoperta di due ore fa, che Dario De Marco ha un passato da stagista a Radio 24. Sì, sono stato vari anni fa per un mesetto al GR di Radio 24 nell'ambito degli stage che facevo dalla Scuola di Giornalismo di Bologna. Stagista estivo o stagista... Estivo, 2003, un'estate caldissima. Nell'estate caldissima del, Milano, 2000, del 2003. Una roba terribile. Sei tenuto a dire che hai un eccellente ricordo di Radio 24. Assolutamente sì. Assolutamente. Ma anche sì, prima però. Di oggi. Anche di più? Bene. Allora, dopo sentiamo com'è il tuo libro, sentiamo come, insomma, andiamo in quel genere di dettaglio. Invece a Massimo Turchetta, che ripeto, sta allenando l'Inter dopo aver allenato il Milan e la Juventus, e parlo di editoria evidentemente, la domanda credo che sia, insomma, abbastanza inevitabile. E la prima è: come sta in generale l'editoria italiana? In generale. L'editoria italiana sta molto bene, il mercato del libro italiano sta così così, che sembrerebbe una risposta contraddittoria. In realtà l'editoria italiana nel suo complesso ha una vivacità, una varietà, una inventività, una cattiveria, un'aggressività che probabilmente l'allinea al meglio dell'editoria mondiale. Ha un mercato molto più piccolo, che in questo momento sta anche un po' soffrendo delle contingenze, la situazione economica, della difficoltà delle librerie ad arrivare alla fine del mese, e quindi diciamo che è un'editoria molto, molto forte dentro un mercato piuttosto debole. Passiamo con Massimo Turchetta all'editoria sportiva, che tra l'altro mi pare per RCS sia un piatto abbastanza forte, no? Sì, l'editoria sportiva è una... a me piace di parlare di bei libri che parlano di sport. L'editoria sportiva purtroppo in Italia, rispetto ai paesi anglosassoni, che sono comunque il termine di paragone ancora oggi più significativo, ha sofferto in passato un po' dell'elitarismo di chi faceva editoria in Italia, autori, editori, agenti, per cui è sempre stata, a parte rari casi, considerata come un'editoria minore rispetto all'editoria maggiore. Questo ha a che fare con l'idea che la scrittura nel mondo nostro, nel mondo italiano, è un po' considerata come sempre derivante dalla musa e non artigianato, mentre invece la scrittura è in grandissima parte traspirazione oltre che ispirazione. Traspirazione non è male. E la possibilità di fare dell'editoria professionalmente anche in campo sportivo è... va di pari passo con la capacità di fare editoria, di scrivere libri professionalmente ben fatti in senso lato. Io ricordo che alcune grandi eventi dell'editoria sportiva mondiale, mi viene in mente per esempio It's Not About the Bike di Lance Armstrong, bellissimo libro che ha venduto milioni di copie, è un bellissimo libro in assoluto e si avvicina ai grandi capolavori di narrativa non fiction che in Italia fanno ancora fatica a trovare non soltanto l'ascolto del pubblico, ma anche a trovare autori, cioè di autori che abbiano l'umiltà di mettersi al servizio di una storia e non pretendano invece di costruire il proprio mondo esclusivo. Vediamo se questo ragazzo reduce, ripeto, da uno stage di Radio 24 ha seguito un po' questi dettami. Tu come hai declinato i 150 anni e lo sport? Dunque, io ho pensato appunto di dover tenere insieme queste due cose attraverso una trama che poi fosse anche autonoma, quindi diciamo le strade di binari paralleli erano tre, no? La trama vera e propria, poi l'attenzione allo sport e poi l'attenzione all'Unità d'Italia. Per quanto riguarda l'Unità d'Italia, io più che considerarla come momento storico, quindi come questione del risorgimento e degli anni immediatamente precedenti e successivi, ho pensato di parlare più della attualità, quindi politica in senso lato attualità, nel senso di far toccare alla trama quegli aspetti che riguardassero l'unità o la disunità dell'Italia attualmente, e quindi per esempio l'ascesa dei partiti regionali come la Lega, oppure la spaccatura su delle cose che dovrebbero essere delle basi comuni del vivere civile, per esempio come il fatto di pagare le tasse, no? Che questa follia che ogni tanto qualcuno ancora che comunque commette. È una cosa che divide, no? E non dovrebbe, o perlomeno insomma nella... E quindi questo è stato, diciamo, il tentativo di parlare dell'unità d'Italia. E lo sport come ce l'ha inserito? E lo sport ce l'ho inserito, a questo punto lo sport per forza di cose, dovendo essere in parallelo con la politica e con l'attualità, doveva essere il calcio, nel senso che è il calcio lo sport più popolare, è quello che per una serie di motivi si intreccia con le vicende storiche e attuali dell'Italia. E nell'ambito del calcio ho deciso di parlare dei mondiali, o meglio, ho ambientato ogni capitolo all'interno del ristretto periodo dei mondiali di calcio di ogni 4 anni, cioè di tante edizioni, quindi. Esatto, sì. Tante edizioni dei mondiali. Esatto, sì. Ci stai facendo venire un minimo di curiosità di leggere questo libro quando uscirà, poi ti chiederò il titolo, poi ci darai qualche ragguaglio in più. Io pregherei invece la regia di Milano adesso di mandarci un primo contributo che ci serve poi per innescare con Massimo Turchetta qualche riflessione anche sul costume del e direi sul degrado del momento del pallone, non tanto tecnico ma comportamentale. Il frammento che riguarda Leonardo e l'ultima prodezza del professor Gattuso. Rimango male per essere coinvolto in delle cose che veramente io non considero, diciamo, un po' fuori luogo, però io ho fatto un comunicato perché non era prevista la conferenza stampa in quel giorno lì, era soltanto quello. Io non ho tanto da dire, io ho fatto soltanto 2 domande, diciamo, rispetto a tutto quello che è uscito. La prima era che tante verità che Gattuso ha ancora da raccontare, che le racconti, qua se non ho avuto una risposta. L'altra era sicuramente capire, anche perché conosco, capire la posizione, diciamo, della società rispetto all'accaduto, e per le dichiarazioni che ho letto sinceramente credo che non merito neanche commento, preferisco il silenzio. Si impara sempre, ognuno ha il suo modo di fare, ognuno ha il suo stile, io rispetto e ci mancherebbe altro. Guarda, io non voglio più parlare, non ho tanta voglia di parlare, è normale che se si comincia a parlare vale tutto, quindi vediamo come finirà, la mia voglia è che finisca. Ricordo ai signori che stanno popolando questa sala che con una modesta alzata di mano Giorgio è pronto a farvi intervenire. Volevo sentire da Massimo Turchetta nel frattempo che cosa pensava dal punto di vista del costume rispetto a questa vicenda, che è una vicenda minima, se vogliamo, il Milan l'ha molto minimizzata, però che è una spia di rapporti civili o forse incivili. Ma intanto mi sembra, non voglio fermarmi al caso di Gattuso, che è soltanto il pretesto più recente per parlare di questo tema del costume, perché sia pure da tifoso dell'Inter o da, come dire, simpatizzante dell'Inter, non mi piacquero neanche certe manifestazioni di Materazzi quando vinse lo scudetto d'Inter, certi eccessi. Ben detto. Credo che sia da ricordare che quando un giovane, perché poi si è detto che da parte del Milan sono sempre ragazzi, però quando un giovane diventa un simbolo dello sport, guadagna diversi milioni di euro all'anno, ha una responsabilità sociale forte, tendenzialmente dovrebbe pensare che sono le curve a dover seguire il suo esempio e non lui a seguire l'esempio delle curve. Certo. Quindi credo che la rincorsa vada fatta un po' al contrario. In questo senso forse anche un ambiente avvelenato in cui il campanile, la municipalità, anche la simulazione, secondo me la simulazione nello sport, nel calcio attuale e nel calcio italiano in particolare, è quasi altrettanto grave, perché scatena in maniera assolutamente fredda passioni irrazionali in gente che non vuole quello per scatenarsi. Forse da questo punto di vista, diciamo che non soltanto l'accesso di maleducazione di Gattuso, ma anche la posizione non netta e ambigua di una società che è stata grandissima, secondo me, come il Milan, nella gestione di queste cose, certo, sarebbe stata auspicabile. Sì, un pochino più ferma. D'altra parte è vero che per un certo punto di vista è stata una ragazzata, perché in fondo gli ha detto uomo di merda, non è che gli ha detto magistrato, no? Faccio per dire, quindi insomma... Diciamo che l'insulto tutto sommato era ancora contenuto. C'è un ascoltatore presente che vuole intervenire, che si chiama? Sì, Alessandro. Grazie dottor Garanzini per vederla di persona e non solo ascoltarla in auto quando viaggio, è un piacere. Domanda molto locale, o Toro o Juventus, ovviamente in questo momento sponda juventina. Volevo chiederle, vista la sua esperienza, la sindrome che sta prendendo, al di là della pecunia, alcuni giocatori nel venire a... diciamo alla Juventus, sindrome che riguarda un po' la paura di mettersi in gioco, può colpire, al di là delle scelte societarie, una girandola di nomi, anche gli allenatori? Cioè, al di là del denaro, ci può essere questa componente psicologica di bruciarsi nel venire alla Juventus? Penso di sì, penso che questo sia un momento in cui la Juventus deve ricostruire innanzitutto la propria dimensione, e dimensione vuol dire credibilità a tutti i livelli, cioè questo è accaduto lo scorso anno per Di Natale, non è che la Juventus lo scorso anno non ha pensato di portare qualche giocatore di primo livello a Torino, è che qualcuno gli ha detto no, e questa è ovvio che è una rivoluzione copernicana, no? Rispetto alla storia del calcio italiano, e gli ha detto di no niente meno che trattò Di Natale. Il grave qual è? È che ha avuto ragione Di Natale, perché è stato meglio a Udine, è riuscito a ritornare ad essere capocannoniere e arriverà probabilmente in Champions League, mentre la Juventus forse resterà fuori completamente dall'Europa. Cosa significa? Significa che la Juve deve ritrovare una dimensione. Dopodiché io credo che invece, se parliamo di allenatori che oggi sono manager, la scommessa di andare a fare il manager alla Juventus anziché ad altre latitudini, io credo che se qualcuno la rifiuta commette un errore, perlomeno a parer mio. Ne riparliamo tra poco, dopo aver sentito gli aggiornamenti dei mercati. Grazie. Torniamo in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino in compagnia, vi ho detto, del vincitore di questo concorso letterario Dario De Marco, di Massimo Turchetta, direttore della divisione libri RCS. Massimo, mi pare un tempo uno dei miei idoli storici, che era Nereo Rocco, che ha allenato, sia pure con un non grande successo qua a Torino, è stata l'unica piazza in cui non si è ambientato, e secondo me non è un caso. Tra l'altro, insomma, Rocco aveva una delle sue gag preferite, era quando vedeva un giocatore particolarmente elegante, particolarmente che coltivava in modo particolare la propria persona e la propria estetica, lui diceva de profession Belzovine, aveva questo modo molto ironico, molto divertente di definirlo. Ho l'impressione che nel calcio di oggi la professione Belzovine sia diventato un punto di partenza e poi da lì si va a valutare la tecnica e altre cose. Ma sì, intanto tu lo hai raccontato benissimo nel tuo bellissimo libro su Nereo Rocco, un grande tributo, e ti ringrazio di averlo fatto, perché è importante ricordarlo. Professione Belzovine, io dico che c'è un diffuso e strisciante velinismo nel mondo del calcio. Velinismo perché non saprei trovare un'altra parola per descriverlo, cioè ho la sensazione forte che ci siano alcune carriere di allenatori, tanto per non far nomi, da Mourinho allo stesso Leonardo, forse a Mancini, chi lo sa, nel quali l'aspetto glamour copertinabile conti forse anche più dell'aspetto tecnico e dell'esperienza. Questo lo si vede anche in calciatori, non mi toglie nessuno la suggestione che alcuni calciatori che erano semplicemente dei fuoriclasse, come per esempio Totò Di Natale che tu citavi prima, o forse anche Miccoli, ma che erano meno vendibili come fidanzati di starlette televisive, abbiano subito un po' in termini di stipendio, in termini di presenza nella nazionale, in termini di presenza in grandi squadre, questo loro aspetto meno glamour. Alla fine, insomma, anche nel calcio temo che culo e tette siano due parametri che riportati sul mondo maschile contino troppo. Stai facendo il voglio di scriverci un libro su un argomento di questo genere, perché è indubbiamente affascinante. La professor Belzovine, no, che diventa il glamour, passepartout, no? o ideale rampa di lancio per una carriera al di là, o comunque prima dei meriti. Parliamo invece di chi di meriti ne ha tantissimi, e prima di introdurre l'ospite successivo, che ahimè è collegato telefonicamente, non è qua di persona, ma non per questo non ha una valenza notevolissima, sentiamo un breve frammento, una trentina di secondi, con un collage di voci che arrivano da Barcellona con alcuni dei protagonisti dell'ennesimo scudetto vinto ieri sera dal Barça a Valencia. Siamo dura un anno duro, peleamos mucho porque la peleamos contra un gran equipo y estamos muy contentos. Sí, no, estamos contentos. Tú, estos jugadores son irrepetibles. Especial, muy especial. ¿Por qué? Sí, porque somos los mejores. Por eso, hemos escuchado muchas cosas. Lord ordine di Leo Messi, in ordine di apparizione di Leo Messi, di Pep Guardiola e di Dani Alves, tre dei protagonisti assoluti di una stagione già strepitosa da parte del Barcellona, che potrebbe poi nobilitarsi ancora con la finale di Coppa Campioni sabato 28 maggio, direi, a Wembley contro il Manchester United. C'è un Barcellona che attualmente è in libreria e che è un Barcellona invece in controluce, perché Emilio Marrese, giornalista di Repubblica, a cui do il benvenuto telefonico. Ciao Emilio. Ciao, buongiorno a tutti. Ha scritto un romanzo che si chiama Rosa di Fuoco, romanzo di sangue, pallone e piroscafi, e che è la storia di una parte della vita del Barcellona. Stiamo parlando degli anni del franchismo, della guerra civile più dura, verso la fine degli anni 30 in Spagna, quando il Barcellona era, mentre oggi è meglio che un club, e cioè più di un club, allora era il nemico pubblico numero uno, da un certo punto di vista. Questo romanzo che Marrese scrisse lo scorso anno, presentò qua al Libro di Torino, e qui mi cospargo il capo di cenere anch'io, insomma non dico che passò inosservato, Emilio, ma insomma non ebbe la risonanza che ha oggi, è stato poi pubblicato in Spagna e attualmente è in testa alle classifiche di vendita, non solo in Catalogna, che si potrebbe capire, ma anche nella Spagna stessa. Raccontaci come ti è venuta st'idea. Mi è venuta perché, comunque, essendo un appassionato di calcio e anche di storia, sebbene non uno storico, mi è sembrata un'occasione, essendomi imbattuto in questa vicenda, ho letto alcune pagine di un libro in cui si raccontava questa tournée del Barcellona durante la guerra civile nel 1937, una tournée dalla quale non tornò praticamente nessuno, andarono in Messico e fu usata come espediente, un po' per evitare il fronte ai giocatori, un po' per salvare dalla bancarotta il club, che aveva dei debiti enormi, invece in Messico ebbe un ricco ingaggio, e anche per toglierlo un po' dalle mire del franchismo ancora per un po', cosa che poi appunto non riuscirono a fare, perché poi nel 39, quando vinse Franco, il club fu praticamente espropriato. Tu hai fatto riferimento al motto del Barcellona attuale, quel Messi che è un club, che ormai è uno slogan internazionale, c'è scritto anche bello grande sulle poltroncine del Camp Nou, è in quegli anni che nasce quella leggenda, in quegli anni, da quegli episodi, da una serie di episodi storici che hanno visto il Barcellona coinvolto in prima persona in prima linea nella guerra civile, che nasce quel motto, cioè perché questa identità della squadra va al di là di quello che è un semplice fatto tecnico e sportivo, ma si intreccia in modo così molto forte, molto viscerale, con la storia della sua città, della sua gente, della sua terra, e diventa un simbolo di qualcosa che non è soltanto giocare bene a pallone, ma è un modo di essere, di vivere, rappresenta o incarna questa identità catalana, questa voglia di distinguersi, e diventa un simbolo anche di resistenza nei confronti del franchismo. Io ho preso questa storia, poi insomma mi sono divertito anche a costruirci sopra una specie di romanzo noir, inventando parecchie cose, insomma più della metà è fantasia, giocando però con tutti i personaggi veri e intrecciando gli aneddoti reali di quel periodo, che a volte sono molto più sorprendenti di quelli che il sottoscritto si è riuscito a inventare. Ma difatti il gran finale poi di questo tuo romanzo, in cui rimetti a posto le cose e dici: questo lealmente, questo me lo sono romanzato io, questo invece è accaduto davvero, questo personaggio è esistito e quest'altro no, ti garantisco che poi quella notte che l'ho letto non mi ha fatto molto dormire, e per chi si fida garantisco che Rosa di Fuoco è una lettura molto ma molto coinvolgente, perché c'è dentro molto calcio, c'è dentro il calcio storico del passato, di quella che oggi è la più grande squadra del mondo, ma c'è davvero molto altro, c'è un contesto impressionante. Emilio, io prima di salutarti e ringraziarti, vorrei ancora sapere da te come hanno preso i catalani, no? Diciamo che se c'è un popolo orgoglioso certamente è quello catalano, come ha preso il fatto che una parte così importante della loro storia sia stata rispolverata da un italiano, e mi risulta che tu stai facendo un sacco di incontri, di conferenze da quelle parti in questo periodo. Beh sì, è andata abbastanza abbastanza bene, sorprendentemente bene. Sono già stato un paio di volte a Barcellona, dove davvero credono che io sia uno scrittore, glielo lascio credere volentieri. Il mio primo mestiere, anzi l'unico, è quello del giornalista Repubblica, però l'hanno presa bene, anzi molto meglio di quanto pensassi, perché mi sembrava un po' strano che i barcellonesi, appunto così orgogliosi, facessero spiegare la storia del loro club, non solo del club ma anche della città, da un italiano. In realtà proprio questo li ha inorgogliti particolarmente, che l'attenzione arrivasse da fuori e che comunque venisse rispolverato questo episodio, che è molto poco conosciuto anche in Catalogna, oltre a esserlo quasi per niente da noi. Ho parlato con molti colleghi, anche giovani, che mi hanno detto: per noi la storia del Barcellona più o meno comincia con Cruyff, e quello che c'è prima non lo sappiamo, certo, quindi anche loro sono sorpresi di capire perché sono diventati Messi un club. E poi anche trovare questo collegamento che c'è, questa somiglianza che c'è, oltre a darsi molti perché sul Barcellona adesso è quello che è, ma anche la somiglianza che c'è tra il modo di affrontare, lo spirito di affrontare che ha il Barcellona adesso sul campo, questo voler sempre suo così essere particolare, speciale, primeggiare. Anche ieri sera hanno vinto l'ennesima Liga, la terza consecutiva, hanno detto sì, ma si può fare meglio, dovevamo, certo, perché loro troppo col Madrid, sono molto proiettati nel futuro, voglio vincere sempre alla loro maniera, ed è un modo di essere che hanno. Comunque, è arrivato un bolognese a fargli scoprire le origini leggermente più lontane, leggermente più drammatiche di quelle che gli stessi tifosi indigeni del Barça conoscevano. Grazie ad Emilio Marrese, congratulazioni per questa rosa di fuoco. Noi facciamo l'ultimo intervallo di oggi, torniamo a sentire come va sulle strade. Gli appuntamenti si rispettano, dunque a quest'ora c'è quello con la rubrica storica, curata da Nicola Filippone. Vediamo cosa ha scovato per un giorno, per un 12 maggio. Sembra ieri. 12 maggio 1965. A San Siro va in scena quella che nella storia dell'Inter è la rimonta per definizione. Nella semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni, i nerazzurri devono recuperare il 3-1 subito dal Liverpool la settimana precedente. La formazione di Herrera gioca la partita perfetta e infligge ai Reds uno storico 3-0, firmato Corso, Peirò e Facchetti. L'Inter raggiunge così per il secondo anno consecutivo la finale di Coppa dei Campioni. Si confermerà al vertice d'Europa battendo il Benfica 1-0 nella finale di Milano. Pensate, questa è una confidenza che faccio, visto che qua siamo in territorio granata-juventino. Se pensiamo alla città, forse più granata, ma se pensiamo al territorio in pieno, certamente più juventino. Pensate che il racconto più appassionato di quella serata di Inter-Liverpool, che ho raccolto in vita mia da un punto di vista professionale, fu di Gaetano Scirea, che una volta mi raccontò commosso come lui, da ragazzino interista, tredicenne, quella sera passò tutta la sera schiacciato contro la cancellata a tifare disperatamente per l'Inter, ma lo raccontava con una passione e con una suggestione, come se lui da grande non avesse fatto il calciatore. Quando me la raccontò era già campione, aveva già vinto non so quanti scudetti con la Juve ed era già stato campione del mondo nell'82. Lo raccontava come se lui nella vita avesse fatto l'impiegato. Dario De Marco, svelaci finalmente il titolo di questa tua opera prima. Allora, il titolo del libro è Stringiamoci a corte. A corte con una o due O? Con una O, e stringiamoci e non stringiamoci. Appunto, è un gioco di parole con il verso più equivocato dell'inno di Mameli, perché spesso anche i bambini, quando lo imparano, è più facile che dicano stringiamoci a corte piuttosto che stringiamoci a corte. Sì. No? E spesso è stato letto sul labiale anche dei calciatori prima della partita, che è facile che dicano stringiamoci a corte. Ora, questo che è un semplice errore, per me, nella mia interpretazione, nel libro, diventa una sorta di lapsus freudiano collettivo, cioè una frase rivelatrice della natura degli italiani, cioè della natura fondamentalmente monarchica e desiderosa di stringersi attorno a un leader, attorno a una corte, attorno a un re, e di essere in un gregge, di essere in una fila con una direzione decisa altrove. Ti aspettiamo a Radio 24 quando questo libro finalmente uscirà. Tu tornerai sui tuoi passi, dove hai fatto questo mese da stegista qualche anno fa, nella caldissima estate del 2003, e ce lo verrai a consegnare di persona, ne riparleremo più in dettaglio. Grazie anche mille. Perché ti faremo magari qualche pulce sul cioè, non allora vedo l'ora, non vedo l'ora. Ho scoperto in questo intervallo e in quella parentesi barcellonista blaugrana che Massimo Turchetta ha allenato il Milan, l'Inter, la Juventus, ma per due anni anche il Barcellona, e hai girato e cosa ti manca ancora? Mi manca il Chievo adesso. Adesso vedo. Però durante il mio periodo di barcellonese, di lavoro editoriale, è stato molto bello, ho conservato grandi amici, e mi veniva in mente, te lo dicevo appunto nell'intervallo, che orgogliosamente tutti i miei amici barcellonesi mi ripetevano: noi vinciamo, noi di Barcellona, con la cantera, cioè col vivaio, il Real vince con la cartera, cioè col portafoglio. Che è rimasto, che fa differenza. È rimasto uno slogan che la Spagna non dimenticherà mai. Infatti, se c'è, quando noi qui insomma, sappiamo quale sia la rivalità, che è anche un tantinello tracimata, soprattutto dopo il 2006 tra Juventus e Inter, ma ancora non ci rendiamo conto però di quanto sia invece superiore tra Barcellona e Real, perché ci sono radici che per esempio abbiamo evocato, no? Emilio Marese ha evocato in questo suo libro, che vanno al di là delle rivalità calcistiche, pescano più in profondità, pescano, se vogliamo, forse anche un pochino più nel torbido, e per esempio questi 18 giorni in cui la Spagna è vissuta ha vissuto quattro confronti diretti tra Real e Barça, è stata davvero una stagione avvelenata del loro calcio, che non sono più abituati a vivere in quella brutta maniera. Siamo arrivati all'appuntamento quotidiano con il Giro d'Italia. Voci dal Giro. L'appuntamento di oggi è con Paolo Bettini, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo, che si sofferma e forse ha qualcosa da ridire sulla scelta del percorso della tappa di ieri con quello sterrato finale, che a due giorni di distanza dalla disgrazia che sappiamo, poteva essere opportuna o meno. Ascoltiamo. Ma ieri nel complesso abbiamo visto una bellissima tappa. Io non è che sono contrario agli sterrati, creano spettacolo indubbiamente, forse limiterei ai tratti in salita o in pianura. Ieri abbiamo visto dei lunghi tratti, io l'ho fatti avanti prima della gara, lunghi tratti in discesa molto difficili, un terreno non compattato, molto ghiaioso, difficile controllare le bici moderne, leggere, rigide su quel tipo di fondo. Polemiche fanno sempre parte del gioco e come sempre si va avanti. Professionalità delle squadre, le squadre si muovono sempre con grande professionalità, vanno a visionare percorsi vengono svelati mesi e mesi prima, però puntualmente si parla solo quando ci si passa in gara. Forse bisognerebbe approcciare diversamente la questione anche da parte delle squadre, da parte dei corridori. C'è un'associazione corridori che potrebbe intervenire prima, si potrebbe mediare prima, non dico una tappa come ieri di andare a stravolgere il percorso, ma bastava bagnare la discesa, togliere un po' di polvere, compattare un po' di più, e forse si dava quel minimo di sicurezza in più agli atleti. Però i ragazzi poi alla fine, sono stato in gruppo con loro fino a poco fa, sono bravi, sanno gestire la bici. Mi dispiace per le cadute stiamo scoprendo sempre di più quanto fanno parte di questo mestiere, però ripeto, quando si può bisognerebbe andare a limitare il rischio per questi ragazzi. Voci dal Giro. Finisce qui la puntata di oggi di A Tempo di Sport, non finisce qui l'avventura di Radio 24 al Salone Internazionale del Libro di Torino, continuerà fino all'ultimo giorno, fino a lunedì sera. Grazie a Massimo Turchetta, grazie a Dario De Marco, grazie a tutti i tecnici che al comando di Roberta Lai stanno rendendo ottimale questa nostra partecipazione. Giorgio De Luca, assistente, Fabrizio Guidi, Guido Scotti, Elena Ligios, qualcuno dimenticherò, Sonia Cassaghi, Michelino Breviato, Pietro Lacorte, Roberto Scaltritti, Luca Burato, Davide Cioccia. Siamo un mezzo esercito che per cinque giorni combatte da questa postazione. Grazie a tutti gli intervenuti e a chi ci ha seguito come sempre. Buon pomeriggio.